Allora, intanto grazie di essere intervenuti e vedo abbastanza anche numerosi per questa serata che è la prima di due serate che il Cox 18 dedica alla psichedelia. In realtà la parola è un po' grossa, poi la declineremo in vari modi. Sicuramente per far partire queste due serate, che poi vedranno stasera, una serata per lo più legata ai filmati e alla storia dei Grateful Dead, il gruppo più significativo, diciamo così, della scena della psichedelia americana. E poi domani si proseguirà invece su un concerto che vede sicuramente brani dei Grateful Dead, ma mescolarsi anche a una storia della controcultura, dell'economia, così, della controeconomia americana, e fino ad arrivare al precariato, quindi è una cosa un po' particolare. Ma non potevamo partire senza ricordare chi qua, proprio in queste mura, ha veramente dato il senso autentico dell'essere psichedelico a 360 gradi, partendo ovviamente dalla parte artistica, ma anche concettuale, fino ad arrivare alla poesia, che è Matteo Guarnaccia. E noi abbiamo realizzato con i nostri mezzi, con i mezzi soprattutto qua con l'archivio Primo Moroni, che sta archiviando e digitalizzando molte delle performance che sono state si sono tenute qua negli anni, e delle diverse anche iniziative, e ha fatto un piccolo collage, non è un vero e proprio documentario, l'ha fatto all'ultimo momento, ma sostanzialmente fatto col cuore, e partiamo con quello dedicato a Matteo Guarnaccia. Allora, grazie di essere venuti qui stasera. Tutto questo è atti di bellezza senza senso. Ora io ho in mano in realtà un set di libri di Guarnaccia. E comunque noi, questo fatto di aver fatto 25 anni di lavoro di Matteo Guarnaccia, come dice qualcuno nell'introduzione, forse Gianni De Martino, non so se lui o un altro, ma comunque mi scuserà, qui c'è un mucchio di dediche dentro il libro. C'è un pezzo di storia in questi 25 anni di lavoro di Matteo che alcuni di noi hanno attraversato segno per segno, immagine per immagine, simbolo per simbolo, e con le sue trasformazioni, ma con un filo che corre ininterrottamente, che è questo della grande, potrei dire, fratellanza della psichedelia, ma non solo della psichedelia. Verde, il verde che voglio è un verde iperventilato, verde misericordioso, verde oceanico come il viso verde di Tara, verde precipizio come i capelli di Milarepa, verde fluorescente, sguazzante, sempre rombante, sempre rullante, sempre scorreggiante. Il verde che voglio è un verde carnoso, strisciante, rorido, splendente, verde selvatico, uterino fondovalle, verde peluria terrestre, verde strato di favole tra verdi di verde bambino, verde pisellino con verdi graffi sulle ginocchia. Il delirio panoramico, datemi del verde canarinesco, verde cangiante, tumulto fonico, non verdonzolo, triste, verdastro, militare, verde marziale, verdazzo, bielicico, assassino, per armato, accessoriato, piuttosto del verde minestra, nel sapore altalenico da raffreddare sulla finestra, nell'amplesso di tutte le strade. Lisciando con quei pastrelli i tasti delle piccole cose. Milano aveva anche i suoi pirati, i navigli erano percorsi da pirati che assaltavano le chiatte, erano un luogo in cui era vietato girare di notte sui navigli, perché appunto i pirati potevano attaccare queste, queste chiatte. Era un luogo in cui nascevano le prime bande giovanili, appunto l'ho già citata prima Elfo, la compagnia della Teppa, che erano delle bande di delinquenti più fantastiche dell'Ottocento, nel senso che anticipava molte delle tematiche appunto dei gruppi giovanili, come i Barabba, altra grande banda giovanile dell'epoca che lottava in qualche modo contro l'autorità. E quindi ci rilasciamo molto a questa idea che c'è in questo momento del risorgimento. Il risorgimento in realtà era questa idea di combattere il potere, che questo fosse austriaco, piemontese o quant'altro, poco interessava, l'importante era darsi da fare contro il potere che impediva in qualche modo di vivere una vita piena e sana. Tu ritroverai dentro invenzioni mirabilissime, che lo ingegno del pittore si desta nuove invenzioni, sì di componimenti, di battaglie, di animali e di uomini, come di vari componimenti di paesi e di cose mostruose, come di diavoli e simili cose, perché siano causa di farti onori. Di fare qualcosa assieme agli altri, di muoversi assieme agli altri, e l'impegno che l'evento creativo non sia qualcosa di slegato dalla vita di tutti i giorni, dalla vita di tutti i giorni, che non sia qualcosa di delimitato a una funzione semplicemente estetica da mettere appeso a un muro o infilata come una farfalla a qualche tabella più o meno decorata. In effetti quello che si vede nei centri sociali è questo desiderio di portare creatività nelle tutti i giorni. Lo si vede nell'abbigliamento, lo si vede nel gusto in cui si trasformano gli ambienti in cui si attua la comunicazione. I stravissuti, stravisti, graffiti sono solo uno degli aspetti. C'è qualcosa nella mente nordamericana? Registrata sulla distruzione, implacabile, impenitente, smenosa di bombardare, e l'odio che alimenta la mente nordamericana, avvizzito il cuore, il senza cuore, sempre pronto a uccidere e mutilare, brutale per il bisogno di schiacciare e distruggere. Ecco dove hanno costruito Fat Man, Mr. U-235, e hanno mandato Fat Man e Little Boy in Giappone, per andare al suolo di Hiroshima e Nagasaki. Loro amano Fat Boy, lo nutrono con lo zucchero dei loro cuori, cantano le loro sconce canzoni nelle orecchie di un uranio di Fat Boy e lasciano il resto di noi a mangiare la merda nel loro odio. Qualsiasi cosa o chiunque non sia loro, Fat Boy, così tondo e brutto, così pieno di odio, imbottito di spiriti letali, degli americani, accecato e smarrito negli eserti dell'Iraq. Lui ovviamente nega il fatto che fossero rivolte legate a una questione di razza, erano semplicemente delle pure rivolte popolari. E questa la dice lunga sul fatto della conoscenza che lui aveva, della connessione che aveva con la cultura black. Va bene, grazie per essere qui innanzitutto, è sempre un piacere essere in questo luogo. Ogni volta che passo di qui ricordo con estremo piacere Primo Moroni E questo libro è un libro di quelli che non esisterebbe senza il grande contributo di Primo, perché ricordiamo che Primo fu uno dei primi, mi spiace usare questa cosa in italiano molto imbarazzante, uno dei primi a insegnarmi il fatto che la storia è fatta di tante storie. Sembra una banalità oggi, ma in realtà non esiste una storia calata dall'alto, ma esistono tante storie che compongono la vita degli uomini. Grazie, grazie a Stanley che ha fatto un bellissimo lavoro soprattutto sul suono, e Matteo ci manca tantissimo. Enzo Gentile, che è grande critico su tanti giornali, Repubblica, Il Mattino, poi Rockstar, parliamo di Rolling Stone, parliamo di tanti programmi della Rai, Stereodrome, tutta una serie di programmi, ma anche tanti libri che avrete tra l'altro esposti in vendita in fondo alla sala nel tavolo là, ma anche tra i primi ad aver pensato che si poteva fare delle mostre considerando gli artisti della musica come artisti tout court, no? Come artisti a 360 gradi, e una di queste mostre poi era anche sulla psichedelia e con Matteo, no? Esatto, grazie per avermi invitato, perché vedere questo filmato è veramente un tuffo al cuore, perché Matteo è stata una delle persone a cui ho voluto più bene, e quando se n'è andato poco più di 2 anni fa è stato veramente uno sprofondo. E qui lo vediamo in diverse stagioni, ma è sempre stato Matteo. Quando disegnava, quando scriveva, quando parlava, quando cenavamo insieme. Uno degli episodi più memorabili della mia vicenda professionale è proprio legata a lui, perché nel 2004, quindi siamo esattamente a 20-21 anni fa, ci fu a Carpi, quindi veramente un luogo, un non luogo per la psichedelia, ci fu una mostra organizzata da me e da Matteo, che aveva peraltro esposto moltissimi suoi disegni e fatto naturalmente una consulenza su quello che era lo spirito del tempo. Io magari mi ero occupato un po' più di musica, di copertine di dischi, insomma fu una mostra che diede vita anche a un catalogo, tutto rimasto poi concentrato e fissato in quella cittadina in provincia di Modena. Non c'è stata poi un'altra diffusione, ma ci fu un sacco di gente che arrivava, eravamo nella zona estiva, insomma tarda primavera estate, in un bellissimo palazzo del centro di Carpi, dove tra quelle mura austere che avevano sicuramente visto tutt'altro, però comparivano questi fiori della cultura psichedelica, e c'erano quindi molti disegni, molte tracce musicali, filmati, e soprattutto c'era Matteo, che della psichedelia in Italia, di un certo movimento tra il beat, tra gli hippie, adesso le definizioni possono essere un po' elastiche, sfuggenti, è stato uno dei primissimi testimoni. Matteo, quando aveva 15 anni, a fine anni 60, già frequentava i primi movimenti, i primi vagiti di quel movimento che appunto stava crescendo, che sviluppava le primissime riviste, fanzine artigianali, fatte veramente all'epoca ancora col ciclo stile, oppure con pochissimi mezzi, ma tantissimi sogni e tantissima fantasia. Ecco, Matteo in questo, nel corso dei decenni, si è proposto anche presso le grandi case editrici, presso i momenti museali come quello di quella mostra. E mi ricordo che questa Psychedelic Experience era stata una bellissima motivazione per passare il tempo insieme e per portare a un pubblico anche abbastanza esterrefatto, a Carpi come a Modena, a Sassuolo, sapete, c'è il Festival Filosofia, quindi questa manifestazione entrava poi anche del Festival Filosofia, quindi c'era anche tutto un sviluppo intellettuale, artistico, culturale molto alto, ma noi poi portavamo le copertine dei dischi, che per noi erano stati uno strumento da cui partire per creare la nostra coscienza civile, musicale, politica e comunque legata a qualche cosa che arrivava da molto lontano. Poi ne parleremo ovviamente di California, ma la psichedelia che c'era a Milano e in Europa era molto molto diversa, era fatta di persone che si incontravano, come potremmo essere qua stasera, e tra di loro tracciavano come una rete esperienziale dove c'erano tanti ingredienti, tanti linguaggi, e Matteo era stato bravissimo fin da ragazzo, fin dall'adolescenza, nel riuscire a creare questa triangolazione tra le persone, i musicisti e la propria etica, la propria creatività, che avete visto, c'è anche lì qualche libro presente, era veramente debordante, ha lasciato molto, ha lasciato un vuoto, ma ha lasciato nel contempo anche un grande pieno, e forse dopo c'è ancora qualche cosa che vedremo di lui. Non lo ricorderemo mai abbastanza da un punto di vista affettivo, ma anche da un punto di vista di produzione. Sì, grazie, grazie Enzo. Direi che proprio perché a distanza di 2 anni non si è fatto ancora qualcosa di importante. Importante sarebbe anche proprio aprire anche mostre a nuovi artisti che comunque ispirati a lui vanno avanti, che è forse quello che a lui piaceva di più, anche perché faceva scuola ed era capace. E lui ha esposto un po' dappertutto, e anche i suoi libri li vedete, cioè si è partito dalle case editrici molto presenti qua in al Cox, come la Shea, come l'Agenzia X, come, per poi arrivare anche al Sole 24 Ore. E qui è portare proprio a tutto, a 360 gradi, e poi comunque con l'arcobaleno dei colori e dei sensi. L'arcobaleno dei colori. E infatti, ecco, in questo senso ti volevo anche chiedere, te che proprio hai secondo me, rispetto a tanti altri critici o a chi si occupava di musica, intuito anche la grandezza, se vuoi, che in Italia non c'era, perché all'estero c'era questa idea che comunque l'artista potesse essere, il cantante potesse essere anche artista, e qui hai fatto mostre anche con diversi cantanti, artisti italiani, no? Battiato, per non dire, e qui penso che qui ci sia molto della cultura dell'aprirsi, ecco, dell'aprirsi a 360 gradi. Sì, in questo senso, adesso poi a me non piace parlare di me, ma la memoria è e resta fondamentale. Io ricordo bene, perché nei primi anni 70 compravo dischi, all'epoca esistevano i dischi, pensate un po', sembra un'altra stagione, si compravano i dischi e spesso i più adulti se lo ricorderanno, non si sceglieva tanto l'album di un personaggio magari ancora emergente, ma si sceglieva la copertina. Nelle vetrine dei negozi che erano Buscemi o Bigi, che era un altro negozio sempre in Corso Magenta, ma poi c'erano i negozi in Galleria del Corso un po' sparsi, o c'era le bancarelle alla Fiera di Senigallia, spuntavano queste copertine dei 33 giri e spesso erano abbaccinanti, il costo era accessibile, non si sapeva bene che musica facessero, ma lo si poteva intuire magari leggendo gli strumenti, i titoli dei brani, e si poteva capire se era hard rock, se era psichedelia, se era cantautorato, se era West Coast, se erano folk, insomma un po' venivamo indirizzati, e si compravano con questo sentimento i pezzi delle proprie collezioni, e quindi da lì mi si è sviluppata come una specie di desiderio di diffondere questo tipo di amore, di apprezzamento per l'arte figurativa applicata alla musica. Naturalmente poi uno consumava quei dischi, ma li riponeva con religiosità nelle proprie copertine, avevano anche delle buste interne talvolta, a loro volta disegnate, scritte con i testi, con le note, quindi erano dei piccoli cimeli, qualcuno di voi li avrà ancora a casa, e questo divenne poi nei primi anni 80 per me una fonte inesauribile anche di stimolazione. E ad esempio la prima mostra in assoluto fatta in Italia per celebrare le copertine discografiche venne fatta nell'82 a Milano da me insieme a altri due amici legati peraltro a Radio Popolare, che aveva diciamo sospinto presso l'amministrazione pubblica quel tipo di iniziativa, e venne fatta, pensate, in Galleria Vittorio Emanuele, dove una volta c'erano i cinema, adesso ci sono alcuni negozi, alcuni store importanti, e venne creata una struttura con 600 copertine di dischi. Purtroppo all'epoca non c'erano i telefonini, quindi non ci sono riprese, c'è qualche foto distratta, ma ci fu un servizio del telegiornale regionale che riprendeva gli italiani, i milanesi che festeggiavano la vittoria nel campionato mondiale di calcio dell'82 nel luglio, e sullo sfondo si vedeva questa roba di copertina di dischi, cioè una roba veramente lunare che adesso è impossibile anche da restituire come evocazione, ma si potevano fare queste cose. Sono passati 43 anni e sembra un'altra era, però si facevano mostre perché c'era il comune, c'era qualche sponsor privato che consentiva di farlo e le pagava pure, cioè è una cosa che so, non ci crederete, ma io l'ho fatto. E poi da lì in poi altre ipotesi vennero comunque perseguite, perché l'arte della copertina del disco attraverso quei libri, quei cataloghi e naturalmente quello che arrivava dall'estero, perché non è che ce lo siamo inventati noi, avevamo capito che quel tipo di condizione poteva giustificare una pubblicazione. Adesso vedete dei libri Taschen o Tasken, non so come si dica, che sono anche abbastanza economici, hanno centinaia, migliaia di copertine, una più bella dell'altra, tutta roba antica, perché ormai adesso c'è la musica liquida, per cui prendete al massimo una penna, un file e l'immagine non c'è più. Non c'è neanche la musica, ma questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso. Grazie Enzo. E quello che invece questa sera vedete, delle copertine e anche dei poster, perché anche i poster hanno tutto un loro significato, addirittura ci sono dei libri che qua sono delle Bibbie, dei tomoni, sono dell'archivio invece di un economista di fama, che tutto potreste dire, ma che sia uno dei più grandi deadheads, ovvero i fan dei Grateful Dead, ed è Andrea Fumagalli. Allora, Andrea ha anche un po' curato lui questa serata con i video, no? Direi che magari poi diciamo una cosa, ecco, a te che è una parola fulminante, cos'è, perché sei un deadhead? Cos'è che la cosa che ti ha fatto partire ad essere un deadhead? E poi parli anche del primo filmato che vedremo. Ma succede, innanzitutto, bisogna dire che quando avevo 13, 14, 15 anni, io sono nato nel 59, quindi parlo del 72, 73, 74, io abitavo in via Santa Croce a Milano, esattamente dove c'è la Fede di Senigallia, e ero rimasto affascinato dalla vendita che erano all'angolo con via San Luca e via Calatafimi, c'erano delle scatoloni, c'erano delle persone abbastanza strane che mi incutevano un certo timore, con i capelli lunghi, un po' sdruscià, i jeans sporchi, eccetera, così, che erano seduti con questi scatoloni di dischi, e io ero un po' atterrito, devo dire, perché a 13-14 anni poi i genitori dicevano di stare alla larga, no? I drugà, no? E un po' ero attirato proprio dalle copertine, dalle copertine. E allora è successo che un giorno mi sono avvicinato e uno mi ha detto, guardavo così, mi ha detto, e un ragazzo di questi mi ha detto, prendi questo disco qua. E ho detto, ma che cos'è? Non ti preoccupare, vedrai che ti piacerà. Ma non ho soldi, quanto hai? 500 lire, qualcosa del genere, ti parlo di quegli anni lì. Vabbè, dammi i soldi che hai, gli do i soldi, vado a casa, lo metto sul piatto, ed era il primo disco dei Doors. Io sento Light My Fire e rimango flashato, come credo che sia successo a tantissima gente, no? E da lì mi viene, io conoscevo già i Beatles e i Rolling Stones, più o meno come tutti, qualche altro pezzo del rock inglese, tipo gli Animals, gli Yardbirds, eccetera, ma poco più, poco niente, perché in Italia poi non è che circolasse moltissima roba. Caso vuole che dopo pochi giorni incontro un mio amico gli parlo di questo disco di qua di là, questo mio amico ha un fratello più grande che mi dice: guarda, mio fratello ha preso quest'altro disco, però non le piace, però è molto simile a quel disco di cui mi stai parlando tu, se vuoi te lo regalo. Ho detto: beh, certo, un regalo non si risponde mai di no, ovviamente, considerando che la penuria di soldi era tale per cui comprare i dischi era anche un rischio, perché dovevi precare quello giusto, se no poi... perché compravi i dischi senza averli ascoltati prima, no? Quindi c'era, no? E questo disco era Live Dead dei Grateful Dead, no? Che è quello là, perché quello lì è quello che ho comprato, che mi è stato regalato nel 73-74. Io ascolto Live Dead, ascolto Dark Star e lì secondo Flash, e da lì è iniziato di devo leggere qualcosa di questa musica. E ho comprato un disco che era stato un libro, non era un tuo, non ancora, di Riccardo Bertoncelli. Sapete Bertoncelli, un prete a sparare cazzo? No, quella canzone della Avvelenata di Guccino, che era stata pubblicata nel 74 da Arcane Editrice. Pop Story, che ho ancora a casa. Inizio a leggere e di lì inizia tutto un discorso di acculturamento, diciamo, che mi porta a sentire altra musica, acquistare altri dischi dei Grateful Dead, dei Jefferson Airplane, dei Quicksilver, di tutta la musica psichedelica californiana, nonché della musica underground della costa est, gli MC5 di Detroit con David Sinclair, i Fugs, perché nel frattempo tutta questa musica per noi, quelli della mia generazione, è stato un volano di coscienza politica, nel senso che tu ascolti la musica, ti interessa le questioni sociali, vai a scuola, al liceo a 14-15 anni, nell'epoca c'erano i movimenti studenteschi, c'era fermento, eccetera, e da cosa nasce cosa? E tu rimani intrippato, nel senso che è proprio un trip, ma un trip positivo, no? In questa idea della musica come spiegazione della contraddizione e contemporaneamente del reale. E i Grateful Dead per me è stato un po' questa cosa qui. Io non sono più, sono diventato drogato da questo punto di vista, non soltanto di tanti altri gruppi, perché poi mi sono interessato a tanta altra musica, ho avuto la possibilità, grazie poi al movimento del 77, alle fanzine che giravano all'epoca, allo sviluppo della musica underground milanese, eccetera, di partecipare alla nascita dei centri sociali, a tutta una serie di esperienze dal basso, che ovviamente ho conosciuto Conchetti in quegli anni, eccetera, eccetera. No? Ma la musica dei Grateful Dead aveva una cosa un po' particolare, che è unica, che era quella che ogni pezzo che suonavano lo ripetevano, ma non era mai uguale a se stesso. Ogni versione era diversa, soprattutto nelle versioni live dal vivo. E ho scoperto, ho visto poi, ho avuto la possibilità poi, andando da New Carey, da Buscemi, da altri negozi di dischi, che circolavano, iniziavano a circolare i bootleg, cioè le registrazioni live dei Grateful Dead. Era l'unico gruppo che aveva questa cosa, ma parliamo del 76, 77, 78, poi i bootleg sono iniziati a circolare di più anche rispetto agli altri gruppi. Ricordo un bellissimo bootleg giallo del concerto dei Police al Palalido del 79, ad esempio, o altri bootleg di questo tipo qua. Però il fatto è che tutte le canzoni dei Grateful Dead, no, erano sempre suonate in maniera diversa e si allargavano, si restringevano, cambiavano tonalità, mettevano dentro degli altri pezzi insieme, facevano delle jam. Cioè le jam dei Grateful Dead sono, diciamo, una... fluviali. Sono fluviali, ma è anche una sorta di liberazione. Di autocoscienza personale, in un certo senso, non so come dirlo, di rilassatezza e di incazzatura anche nello stesso tempo, perché ti mette in moto tutta una serie di pensieri e di cose del genere. Questo è. Cosa vediamo adesso? Allora, qui abbiamo preparato alcuni filmati. C'è un bellissimo film che si chiama Grateful Dead Movie, che forse coglie bene, perché l'aspetto dei Grateful Dead non è soltanto la musica, ma anche tutto ciò che circonda i Grateful Dead, questo popolo che viene chiamato i Dead Heads, che è una cosa particolare, che segue il gruppo da concerto a concerto. C'è gente che ha sentito i 200 concerti dal vivo dei Grateful Dead, perché prendeva le ferie per seguire le tournée e andando tutte le sere a sentire un nuovo concerto, che comunque era sempre una cosa nuova, per quello che dicevo prima, non era mai ripetitivo. E questo ambiente un po' della controcultura, della libertà, della condivisione, eccetera, eccetera, è sempre stato poi uno spirito che ovviamente ti cattura. E noi vediamo alcuni filmati che ha montato Stanley, che ci sono alcune serie di fotografie che sono tratte appunto dal film Grateful Dead Movie, e poi guardiamo come primo filmato un documentario abbastanza particolare, abbastanza inedito sicuramente in Italia, che è stato recuperato nel 2005, che era stato fatto, pensate, niente poco di meno che da Paul McCartney e Linda McCartney, che riguarda le riprese di un concerto gratuito che i Grateful Dead hanno fatto al Central Park di New York nel maggio del 1968, prima di andare a suonare qualche mese dopo alla Columbia University, che era occupata dagli studenti per protestare contro la guerra in Vietnam. Ricordo che nell'occupazione della Columbia, che è durata 30 giorni, da cui nasce l'anno poi Weatherman, per intenderci, e lo spostamento e la scissione del Student for Democratic Society, dell'SDS, no? I Grateful Dead sono l'unico gruppo che è andato a suonare. E quindi ha preso una presa di posizione molto forte, nonostante che i Grateful Dead si sono sempre dichiarati, nelle parole di Jerry Garcia, un gruppo apolitico, ma in realtà sono stati il gruppo più politico di tutti i gruppi della West Coast californiana, perché hanno fatto benefits per gli ospedali, per i Diggers, per la Free Clinic di San Francisco, che è ancora oggi operante, l'unico istituto sanitario gratuito che esiste negli Stati Uniti, no? E quindi poi nella pratica erano molto politici, concreti, anche se poi loro non volevano, viaggiavano su un altrove loro, come la spesso usanza di quei spazio, tempi, so. Nel cyber, poi quello che diventerà poi il cyberspazio, diciamo, no? E questo filmato di Paul McCartney e di Linda McCartney è abbastanza interessante, perché Paul McCartney poi dichiarerà che non sapeva di averlo, e quando l'ha visto ha detto: beh, io i Grateful Dead li conoscevo ovviamente, però non sono andato mai a sentirli, sicuramente questo è stato un errore nella mia vita. Beh, allora lo vediamo, noi lo vediamo. Allora, queste sono le foto, una carrellata veloce di foto di un minuto. Questo è Ashbury, che è il quartiere simbolo del movimento californiano. Questo è un concerto gratuito in 8th Street. If my words did glow with the cold of sunshine, and my tunes were played on the harp strum, would you hear my voice come through the music? Would you hold it near as it were your own? It's a hand-me-down. The thoughts are broken. Perhaps they're better. Questa è una foto di tutti i gruppi della band di San Francisco. I don't know. Marty Balin, Jefferson Airplane, Jerry Joplin. Don't really care. Let there be songs to fill the air. Questo per dare un po' lo spirito siamo nel periodo 67-68, il periodo forte del movimento degli hippie californiani. Avete visto, a un certo punto vedete uno che trasporta una specie di bara, è la famosa manifestazione del funerale degli hippie quando hanno messo fuori legge l'LSD. Parliamo del marzo del 67. È un pezzo dei Grateful Dead, si chiama Feedback. Questo pezzo si intitola New Potato Caboose ed è la seconda facciata di Anselmo Zessano. È forse il secondo pezzo psichedelico più bello dei Grateful Dead. Thank you. Questo pezzo si chiama Alligator, sempre tratto da Anthem of the Sun. Beh, dopo aver sentito questi due pezzi a 16 anni non ho mai sentito una cosa del genere, è chiaro che uno rimane leggermente... Una folgorazione. Allora, innanzi, direi che un applauso ci vuole. E mi piaceva anche un po' allargare anche altri nostri amici che sono qua, e c'è uno che è assolutamente una rarità per tutti noi, aver visto 8 concerti dei Grateful Dead. Non so, io qui, ma intanto chiedo così, alzate la mano chi ha visto un concerto dei Grateful Dead tra noi qua. 1, 2? Quanti ne hai visti te? 2 ne hai visti? Lui ne ha visti 8. Vieni qua un attimo, vieni un attimo. Allora, intanto di come ti chiami, così entri direttamente nella... Sono suo omonimo, Andrea. L'Andrea ha visto 8 concerti. Dove li hai visti? Vagamente... e poi dici due o tre cose sul concerto che poi vedremo dei pezzi. Allora, il primo nell'87, questo periodo era il Capodanno cinese, San Francisco, al Civic Auditorium, ed è stata un'esperienza abbastanza divertente, ovviamente, molto particolare, e dove ho apprezzato lo spirito che stava dicendo prima Andrea, il mondo della, così, della controcultura californiana, ma declinato in una maniera molto molto personale dal gruppo, dai Grateful Dead. E essendo la mia prima volta, avevo comprato solo i biglietti per i primi due concerti, e a quel punto ho scoperto che c'era questo mondo molto particolare. Il terzo giorno, non avendo i biglietti, c'era una cosa che era una particolarità che succedeva solo al concerto dei Grateful Dead: le persone che non avevano il biglietto potevano andare in giro, quello che ho fatto io, urlare sostanzialmente al pubblico antistante la sala del concerto "I need a miracle". E come è successo a me, sono stato avvicinato da una persona: vuoi vedere il concerto? Sì, ti porto io. E sostanzialmente c'era questa specie di catena di solidarietà umana attraverso il pubblico dei Grateful Dead, per cui potevi, indipendentemente dai soldi, poteva regalartelo, magari nel mio caso ho detto se vuoi darmi qualcosa va bene, ma non è un problema, ed è stata un'esperienza, la prima esperienza molto particolare. La seconda esperienza è stata invece Laguna Seca, che in realtà è antistante Monterrey, dove fanno le gare di motociclismo sostanzialmente. Quella è stata un'esperienza un po' traumatica, perché di notte c'era un'umidità bestiale e io dormivo in un sacco a pelo, e di giorno un sole spettacolare che però ti uccideva. Molto particolare, cosa che mi è capitato di vedere solo col concerto degli Who, proprio un concerto organizzato, nel senso che si iniziava con David Lindley dei Kaleidoscope, se non ricordo male, poi si proseguiva con i Los Lobos, e poi c'erano tre ore abbondanti di concerto dei Grateful Dead, partendo dalle 2:30 del pomeriggio fino alle 7:30. E in questo caso mi ero attrezzato e ovviamente ho visto tutti e tre i giorni. Le ultime due volte invece sono stati in Europa, un po' meno coinvolgenti, ma ovviamente molto particolari e soprattutto più a portata di mano, e quindi un'esperienza anche questa molto piacevole. Direi che vuoi finire con "I need a miracle", come l'hai detto in quel momento là, non così. Allora, quando ti sei aperto a tutti, devo essere sincero, ho iniziato molto timidamente con un "I need a miracle", "I need a miracle". Poi, tra l'altro, avevo combinato un pasticcio, perché in realtà avevo conosciuto una persona. Avevo conosciuto una persona con due figlie che avevano già visto più concerti di me e avevano solo 12 anni. abbiamo bucato l'appuntamento, quindi non sono riuscito ad avere questi biglietti, e molto timidamente "I need a miracle". Dopodiché sono andato in giro per la square urlando "I need a miracle, I need a miracle". Alla fine qualcuno è intervenuto davvero. E il miracolo c'è stato. Grazie. Grazie Andrea. Grazie, I need a miracle. Allora, direi che tu adesso che cosa vedremo? Vedremo dei pezzi. Possiamo vedere magari un pezzo. Noi abbiamo parlato tanti spezzoni, non possiamo farli vedere tutti, ovviamente. Però possiamo vedere invece un filmato tratto di un pezzo che suoneremo domani. Si chiama "China Cut Sunflower", tratto da Oxo Moxua, quello che è quella bellissima copertina che a me mi aveva affascinato quando l'ho visto la prima volta. Col titolo palindromo. Tra parentesi, devo dire, ci sono varie leggende sul perché si chiama Oxo Moxua. La più accreditata, però, i Grateful Dead non hanno mai detto che cosa significava, se non che era un palindromo, cioè si poteva leggere da destra a sinistra, a sinistra a destra. Ma pare che l'origine, alcuni dicono, alcuni critici, magari Enzo ne sa più di me, no? Che viene da Alfa Omega, AO, quindi nascita e morte, e la X di AOX è il simbolo della centralità, che ha dei risvolti esoterici, qualcosa del genere, adesso non so. Pare che sia l'origine di questo strano titolo. Beh, in questo disco c'è una canzone che si chiama China Cat Sunflower, è stata scritta da Jerry Garcia, le parole sono di Robert Hunter, che è stato il primo paroliere, insieme a J.P. Barlow, che è stato il secondo paroliere. La prendi, J.P. Barlow è quello che ha scritto la dichiarazione di indipendenza dal cyberspazio nel 96, giornalista informatico, e che ha scritto i versi di questa canzone sono assolutamente allucinogeni, se voi andate a leggere la traduzione, perché è stato scritto durante un viaggio che Robert Hunter faceva spesso in Messico, e Robert Hunter quando andava in Messico poi tornava fatto di metedrina, quindi insomma non completamente in condizioni ottimali, no? E ha fatto il viaggio di ritorno su un autobus con un gatto sulle gambe, e questo gatto gli dava delle visioni, e lui descrive nel testo le visioni che derivano da questo gatto che ogni tanto si trasformava in girasole, da cui il titolo China Cat Sunflower. Aveva gli occhi probabilmente un po' a mandorla, non era un siamese, non lo so. Beh, questo posso solo aggiungere che questo manifesto, ovviamente poi la copertina del disco, è una delle più belle della storia della... È Rick Griffin che l'ha, esatto, fatto. Rick Griffin, che poi ne ha prodotte tantissimo. Anche i manifesti stessi dei concerti dei Dead e delle altre band, avete visto prima c'era un manifesto con Mothers, con Grateful Dead insieme, quindi c'era veramente Alfa e Omega anche in questo caso. E questi sono tutti pezzi rarissimi, tra l'altro i manifesti d'origine hanno raggiunto quotazioni sbalorditive, ma così quello come non è originale, no, se immaginavo. Ma così come dicevamo prima che la musica è stata istruzione ed è stato un battistrada per molti, ma nella grafica, la grafica psichedelica che nasce nel 66-67 insieme a tutto il movimento culturale è quanto di più pesante e forte nella trasmissione dell'immagine degli anni 60 a oggi, che poi torna nella pubblicità, nel cinema, nelle dimensioni più varie, e quindi certo, viene proprio come il suono da quel momento. Ecco, la versione di China Cat che adesso vedremo, lo dico solo per informazione, è tratta da uno dei più bei concerti live che si ricordano, ce ne sono tantissime di verità, dei Grateful Dead, che è quello del 27 di agosto del 1972 a Veneta, ridente località di villeggiatura in Oregon, a nord della California. Sì, ecco, solo una cosa per collegarmi anche al senso esoterico, eccetera, e a quello che era il festival di filosofia a cui ti collegavi. Ecco, per dare due o tre concetti, non li abbiamo ancora dati. I concetti della psichedelia, del pacifismo, dell'apertura della mente, no? Che rimangono ancora oggi. Beh, era il senso della trasformazione, della evoluzione, perché c'era spirito, c'era mente, ma c'era anche il corpo. Era una dimensione culturale, quella del 66-67, dove c'erano tutti questi ingredienti. Diventa molto molto complicato credere come ci fosse poi un movimento che era quello del flower power, che dice il potere dei fiori. Che significa? Canzoni dove si cantava: se tu vai a San Francisco troverai dei ragazzi simili a te che portano i fiori nei capelli. Che razza di testo è? Ma era qualcosa di molto concreto, perché ce fu in quel periodo una migrazione verso la West Coast, verso una dimensione che era di cultura, ma era anche di partecipazione fisica, perché il teatro di strada, il Living Theater, cominciava a lavorare in quel momento, le prime case editrici indipendenti. Beh, Ferlinghetti poi ce l'ha spiegato, ha vissuto circa quasi 100 anni e la sua libreria era ancora attivissima, ma parte da quell'esperienza. Quindi c'è un intreccio tra cinema, teatro, poesia, musica, pubblicità, grafica, che nasce proprio in quel momento. E quindi la psichedelia, che poi molti, diciamo, traducono in molto colore, in immagini slabbrate, forti, ma effettivamente hanno anche, aveva anche delle radici profonde, perché coloro che raccontavano l'esperienza psichedelica lo facevano da più punti. Ken Casey, che è colui che poi è diventato famoso per Qualcuno volò sul nido del cuculo, e viene da quell'esperienza lì. Il Grateful Dead, se posso permettermi, Ken Casey è più famoso perché era quello che ha inventato i Merry Prankster, certo, con certo. Neil Cassidy, Dan Moriarty sulla strada di Kerouac. Infatti, quindi c'è una dimensione anche letteraria che magari sfugge, ma che invece trova una grandissima ricchezza proprio in quelle stagioni. Quindi è un movimento che poi ha lasciato tracce profonde, anche se apparentemente, diciamo, viene collocato, diciamo, in alcuni gruppi. Ero un grande fan dei Jefferson Airplane, per quello che mi riguarda erano anche individui, poi alcuni continuano tutt'oggi a suonare, di grandissima levatura. E poi c'era la voce di Grace Leake, che ha fatto innamorare diverse generazioni, la non solo per la voce, esatto, la voce di Giorma Caucone, esatto. E quindi c'era anche in quel caso una famiglia musicale, era una comunità, era, anche qui si vede dalle foto, era la un comunità. Collettivo, cioè chi suonava in quell'epoca non era mai un solista, era sempre un collettivo. Questo poi succederà anche in Europa, dove però la psichedelia inglese è in bianco e nero, quella era a colori cangianti. I Pink Floyd straordinari, però erano molto in bianco e nero. Quindi un bel China Cat Sunflower in una delle versioni migliori, diciamo così. Te però hai scelto i brani che poi facciamo anche domani, e poi è impietosa la diciamo così. No, beh, ve lo diciamo già, domani vi aspettiamo qui, perché in effetti non è solo psichedelia, c'è anche l'incontro con diciamo l'economia, la psichedelia, il precariato, altre cose che comunque con un filo rosso che le lega tutte insieme. Ah, vi dico che il filmato compare con la scritta "vietato ai minori di 18 anni". E potete capire perché. Thank you. dance from our seal job. A ring of silent bell beneath the shower of pearls in the eagle wing palace of the queen child. Thank you. viene voglia di applaudire. Allora, questo di solito nei live viene seguito, vedete che ha sfumato, perché viene, segue un pezzo traditional, I Know You Rider, che parla dei minatori nella regione del... aspetta, madonna mia, dove c'è Denver? Colorado. Esatto. Infatti c'è un verso che dice Colorado is raining. Beh, quando si diceva, ed era un detto, beh, lui diceva I need a miracle, ma non c'è nulla come un concerto dei Grateful Dead. Questo è una delle cose che quando uno lo vede come una visione, no? Abbiamo visto la visione, eccetera. Ma in effetti i Grateful Dead sono, che hanno avuto un'evoluzione, ma in realtà è già nella stessa loro musica un melting pot, se vogliamo dire, di sensazioni, anche di stili diversi, no? Dati dai vari musicisti. È l'apertura, quello che hai detto te, cioè una comunità, è una diciamo così, cosa vi dico? Un collettivo che ha dentro bassista sicuramente di estrazione jazzistica e anche improvvisatore. Phil Lesh è stato allievo di Shostakovich, ha fatto musica classica ed è stato allievo anche di Luciano Berio, quindi ha delle reminiscenze classiche, come Tom Constantin, che era uno dei primi pianisti che poi nel 1969 ha lasciato il gruppo per fare una carriera solista, che è quello che poi ha messo i suoni più psichedelici soprattutto in Anthem of the Sun, che anche lui è una formazione classica. Beh, Mickey Hart ha studiato tutte le percussioni orientali poi negli anni 90 portare anche a quindi termine l'etnica, diciamo, esatto, anticipatore, poi doppia music, batteria, doppia batteria, naturalmente il bluegrass, no? Il country, Garcia è stato uno dei più grandi chitarristi della steel guitar e del bluegrass. Del resto ci sono dischi anche da solisti come bluegrass, eccetera, per non dire del blues, no, perché il blues pervade, ci sono espressioni, ecco, diceva ne ho trovata una che rappresenta abbastanza, naturalmente adesso la cerco e non la trovo, che diceva, non era, come hai detto te, non era la psichedelia un po' fighetta dei europea, ma era peraltro averne adesso, certo. Naturalmente, ma veniva fuori dal blues, quindi allora, da, diciamo la così trovi, per contestualizzare, il primo album dei Grateful Dead esce nel 67, che è anche l'anno in cui esce una serie di esordi stupefacenti. Pink Floyd escono nel 67 con il primo album, così Traffic, così Creedence Clearwater Revival, così Jimi Hendrix Experience, così Doors, così Cat Stevens, così Leonard Cohen, anche Guccini, se vogliamo stare in Italia. È tutta gente che esordisce in quell'anno, anno in cui esce per esempio Sgt. Pepper. Quindi è una area protetta, miracolosa, I Need a Miracle, lì si poteva veramente gridare, c'era stato. E questo dimostra come c'è una fioritura sensazionale, spontanea, che era governata da forze superiori, perché in diversi punti degli Stati Uniti e dell'Inghilterra, che erano le centrali operative del rock, comunque escono dei nuovi talenti. Anche il primo disco di David Bowie, che non è formidabile, ma lui lo sarà dopo, nasce sempre nel 67. Quindi anche su questo bisogna proprio pensare come in quella striscia di terra, anche tutto sommato molto contenuta, che era San Francisco, perché non era la metropoli di Londra, San Francisco è una piccola città, tutto sommato, se paragonata al resto degli Stati Uniti, però in Haight-Ashbury nel 65 nasce una comunità che è di vita e poi di musica, che riesce, così come succede nei cerchi dell'acqua, a allargare sempre più la propria influenza. Se qualcuno sa che cos'è Burning Man, che è una manifestazione che ha preso delle proporzioni inimmaginabili negli Stati Uniti negli ultimi anni. Burning Man nasce da una comunità di hippie che stava a San Francisco, che a un certo punto si sposta nel deserto per fare una manifestazione di cultura, di scambi musicali e non solo, ma arriva sempre dalla fine di quegli anni 60, poi diventa un business incontenibile, ma questo poi è la deriva che ha preso ad esempio quella stessa area intorno a San Francisco negli ultimi anni. Adesso molti sono schierati per Trump adesso, di quella stessa genia. Ma ne parleremo domani questo. Sì, purtroppo loro hanno già cominciato a parlarne. Di là. No, tra l'altro tu hai citato Ferlinghetti, e qui Ferlinghetti c'è passato qua. E la Calusca City Lights proprio si ispira a quella libreria, a quell'omino, che ho visto recentemente un documentario con il suo libro di poesie, che per tanti versi mi ricorda anche Primo Moroni. Grateful Dead, ovvero la quintessenza della psichedelia, e non quella fighettina tirata lucido dei Pink Floyd post-metal, e nemmeno quella mielosa e poppettara dei Beatles, qui qualcuno poi si rizzeranno la pelle, no? Ma quella grezza, malata e bastarda, figlia del blues che, strisciato fuori da una palude fangosa, decide di calarsi una dose di mescalina e volare verso le infinità del cyberspazio. E qui poi si apre poi un discorso anche sull'LSD, che io ho visto il primo filmato che ho visto di Grateful Dead, si entrava in questo grosso concerto in un grosso bidone, in una brodaglia dove ognuno buttava dentro una sua anfetamina, e poi naturalmente c'era qualcuno che mescolava e si tirava fuori a mestoloni. Vediamo i filmati e poi riparliamo ancora, e vorrei coinvolgere anche l'Alessio, che è un altro fan, altro critico anche qua, che abbiamo qua, abbiamo il piacere di avere stasera. Ci vediamo Morning Dew, credo, no? Andrea? Morning Dew. Tutti i brani che faremo anche domani, infatti lui è andato a sceglierli apposta. Tra l'altro è il senso fluviale di questa esecuzione di questi brani che si perde un po' nel tempo. E va detto che decontestualizzarli oggi fa perdere molto, no? È chiaro che qui era dietro, c'era quelle esibizioni live, ma avete visto che cosa c'era intorno. E poi magari parleremo di quelle che cosa è rimasto di quella psichedelia in tanti gruppi che c'è, ma più in forma di stile, e non proprio qui c'era anche la vita, non era solo lo stile, la vita di una comunità. Del resto è quello che diceva anche Andrea, cioè c'erano tanti concerti, hanno con i fondi si sono costruiti, si sono fatti ospedali per la gente che non aveva la possibilità di accedere. E quindi si era in un altro mondo parallelo, ecco, adesso invece stiamo ritornando. Ora, questo è un filmato sul pubblico che assisteva ai concerti dei Grateful Dead, un po' come quello di prima di China Cats and Flowers. Questo è il concerto del Winterland del 74, che ha dato origine al film Grateful Dead Movie. Questi sono uno dei tanti spezzoni di musica improvvisata che si chiama, nel linguaggio dei Dead Heads, Space, spazio. Thank you.

Thank you. Credo che sia la migliore versione live di Morning Dew. Ne ho sentite almeno 150. No, no, dico questo perché per chi non lo sapesse. E voi domani la fate? Come? Sì. Lo sprezzo del pericolo. Però siamo only for brave people. Una versione liofilizzata. No, no. Così potete notare la differenza. Sì, infatti sei stato una grazie. No, volevo dirvi un'informazione, che dato che i Grateful Dead hanno sempre permesso la registrazione live dei loro concerti e sono sempre stati contro i diritti di proprietà intellettuale, sul sito archive.org, che è stato oggetto di attacchi proprio recentemente perché vogliono chiuderlo perché utilizza la licenza Common License, no? E se andate su archive.org, cliccate Grateful Dead, potete scaricare e sentire più di 6500 concerti live dei Grateful Dead dal 66 al luglio del 95 al Soldier Field di Chicago, che è stato l'ultimo concerto perché una settimana dopo Jerry Garcia è morto. Quindi potete sbizzarrirvi senza alcun costo. Allora, tanto per dare un po' colore anche alla serata, così mi piaceva avere anche altre voci dei The Deads. Intanto i The Deads erano proprio una comunità nomade, sostanzialmente, si può dire, che seguiva tutti i loro concerti. E allora avevamo qua il piacere di avere Alessio Brunalti, che è un critico e comunque soprattutto un appassionato di Grateful Dead. Quindi se vuoi venire e dire anche la tua, se tu dovessi partire con un libro e dire le tue prime, l'incipit di questo libro su Grateful Dead, quale sarebbe? Ci sono, oltre alle 150 versioni live, ci sono una quantità di cover di Morning Dew che fanno spavento. È un pezzo di una cantautrice canadese che si chiama Bonnie Hobbs, e l'hanno fatta Chain Trout di Jeff Beck, cantata da Rod Stewart, mica Tim Rose ci ha costruito una, nessuno la suonava come Grateful Dead, nessuno, tutti l'hanno fatto, è un pezzo comunissimo. Un'altra cosa che mi ha colpito rivedendo questo è quanto poco si guardano, perché per suonare assieme è così tanto, proprio fare pezzi di 17-18 minuti cambi, in genere si guarda, no. Si sentono, cioè, anzi si il sento. Momento è quando passano la Morning Dew, si guardano le esce Garcia, tipo adesso li facciamo vrampo, okay. E basta, non si guardano più, fanno questo. Poi mi piace vedere le due ancore, abbiamo parlato dei musicisti prima, loro hanno due ancore, uno è Bill Kreutzmann, l'altro batterista, che invece è il batterista, no, quello che tiene il ritmo, cioè lui è bravo, è una macchina da ritmo, mentre l'altro Art Spazia, poi lui non c'era neanche Art in esilio, lo sappiamo. E l'altro è il Bob Weir, che a questo punto è diventato il portavoce ufficiale, che è teoricamente il chitarrista ritmico, in realtà è il pupillo di Garcia, per cui è il suo contrappunto costante, ma è quello che li tiene in qualche modo fermi su quello che stanno facendo mentre loro vanno altrove, e rimane sempre un'esperienza straordinaria vederli e ascoltarli. Poi avevano altri due valori aggiunti, avevano per l'epoca un impianto audio mostruoso, cioè i Beatles suonavano con delle casse che sono inferiori a quelle che adesso avete a casa per ascoltare la musica, cioè ci facevano i concerti negli stadi con delle casse da 50 watt, no? Senza le spie, cioè non c'era loro avevano questo, dei tecnici, dei fonici che si portavano dietro che permettono queste cose. Archive.org, io quando l'ho scoperto ho detto benissimo, me li scarico tutti. Poi sono arrivato al 72, dal 65 al 72 sono, credo di averne scaricati, non so, 300, una cosa del genere. Poi bisogna anche fare quella cosa là, che è sentirli, ascoltarli, no? Certo. Però allora, se lo fate, è un'esperienza unica, perché ascoltarli sera dopo sera, no? Per esempio c'è un pezzettino, The Faster We Go, The Rounder We Get, che è una sorta di ponte, quando non sai, perché a un certo punto noi vediamo i capolavori, poi non sai che cazzo fare a un certo punto. Allora, si guardavano, cioè, prendiamo tempo un attimo, vediamo di farne una, e ripartivano con un'altra. Però è vero che non facevano mai, una canzone poteva durare da tre, raramente tre, a 50 minuti senza farsi il minimo problema, e questa rimane un'altra sì, qualcuno esperienza. Diceva anche perché non erano in grado di rifarla allo stesso modo, non erano volontà. Poi c'è un difetto che in realtà per loro è un enorme pregio: i Grateful Dead non avevano un cantante di ruolo, che normalmente così non hai il frontman, cioè non hai un divo, e il divo va anche accontentato. I Jefferson Airplane, che sono grandissimi, però avevano Marty Balin e Grace Leak, che non è che stavano, non potevi tenerli 20 minuti dietro solo a tenere il ritmo. Intanto succedeva, però più spesso la canzone è loro, deve esserci, per cui non potevano spaziare così tanti. Invece loro, non avendo la prima donna, no, per cui canta Garcia, meno spesso cantano gli altri, però hanno questa cosa di poter fare. E poi un'altra cosa che è divertentissima, chi vuol stare dietro alla discografia dei Grateful Dead, che è un lavoro, non è un... Cioè, peggio esiste solo Zappa, però loro Zappa, Per Jam, da quando si sono messi a fare quello, Hendrix postumo. Hendrix non è la sua volontà, no? Cioè, è postumo. E Prince, anche da cioè quelli che pensano che qualsiasi nota che abbiamo fatto comunque è di Young. Neil Young sta distruggendo i portafogli. Continua, sì, adesso esce uno la settimana prossima, no, si va avanti all'infinito. Loro considerano che ogni singola nota più o meno vale la pena di essere ascoltata, perché era ripresa appunto così, così bene. Cosa facevano quando non facevano musica come Grateful Dead? Facevano musica per i cazzi loro. Così ci sono anche tutti i dischi solisti dei Grateful Dead e le collane di dischi live dei Grateful Dead. Uno può costruirsi una casa sostanzialmente soltanto di a questo punto voglio sapere da quanti ne hai presi. Ma io avrò di vinile, oltre a quelli che sono qui, ne avrò altri, un'altra dozzina di bootleg dell'Europa 74, poi di altri bootleg eccetera in LP, poi di CD ne avrò un 200, cioè una metà, quasi tutta la collezione di Dick Speaks, e poi altri bootleg vari. Ce ne sono un paio di bootleg dei Grateful Dead dipinti con la copertina fatta da Bad Trip, che è quello che ha fatto i disegni qua su quella sedia su cui sono seduto, Gianluca Lerici, perché a Spezia c'era una casa discografica underground che ha fatto due su CD, due dischi live di concerti non particolarmente famosi in primi anni 80, dove la copertina è stata disegnata da Bad Trip. E Live Dead può essere uno dei dischi live più belli, più importanti di tutta la storia del rock? È il primo disco live della storia del rock propriamente detto, secondo me, cioè fatto di inediti, registrato da Dio, che si può mettere su come disco a sé stante, doppio. Nella storia, doppio, cioè non era singolo, non era finto, perché ci sono i live fatti con gli applausi posticci. Oggi ne sentivo uno di Chuck Berry che è ridicolo perché è registrato benissimo, ma naturalmente con gli applausi sotto. C'erano dei grandi dischi, Live all'Apollo di James Brown, che però è un disco solo, chiamiamocela così, questo è proprio doppio, lungo, ti dà tutto quello che ci deve essere, una cosa... Scusa, c'è una particolarità in questo disco, che è la prima volta che sono rimasto stupito quando l'ho sentito, che la prima facciata c'è Dark Star che dura 23 minuti, alla fine della facciata la musica scema, rigira la facciata, riparte dove la musica è abbassata, per si rialza e parte St. Stephens. Dopo St. Stephens c'è una delle più belle gemme, che è The Eleven, perché i nomi delle gemme, cioè The Seven, The Eleven, perché loro le numeravano, non gli davano dei titoli, la improvvisavano quando facevano, suonavano per i cavoli loro, hanno fatto dei concerti di quasi che dicevano They are goofing, stanno giocando. Al Matrix nel 68 ci sono una serie di due ore di jam una dietro l'altra, proprio di improvvisazione così, che sono divertentissimi da sentire. E loro facevano la seconda facciata di Live Dead, alla fine arriva, sfuma, giri la terza facciata e riprende. Quindi praticamente loro hanno fatto un pezzo live di tre facciate su LP, che si può recuperare solo col CD, ovviamente. Come, no? È successo, poi. Come poi è successo. Dico un'ultimissima cosa, poi mi levo perché non è... volevo ricordare una persona che non c'è più, che ha fatto tanto per i Grateful Dead in Italia, che è Paolo Carù. Certo. Perché sul Buscadero praticamente i Grateful Dead, cioè insieme a Van Morrison, il Buscadero è una rivista che ha i suoi totem, no? Però i Grateful Dead, qualsiasi scoreggia di Garcia, si dice, lo dico, gli stessi collaboratori del Buscadero, è incenso, è oro, per cui Paolo faceva queste recensioni, si metteva lì a discernere tutte quante queste cose. E perfino lui, questo mi piace ricordarlo, ha ceduto a un certo punto, perché non so chi ce l'è potuto permettere, nel 50esimo Grateful Dead hanno pubblicato un cofanetto di 80 CD. costava, è una valigia più, sì, ma adesso non mi ricordo cosa costava, però facciamo che fosse anche basso, 8 per lui sono 2600 euro, in realtà era un pochino di più. E io quando un Muscatello Dei prendo Paolo e gli faccio: scusa, ma tu l'hai preso, hai un negozio di dischi, ti arriverà anche, no, tu l'hai preso, e fa: no, non esiste, cioè è una spesa troppo. Dico: ma l'hai ordinato per il negozio? Fa: eh no, non me l'ha ordinato nessuno, cioè non mi metto in casa un affare che poi non vendo più. Perfino Paolo Carulli non ha comprato quell'affare. E poi l'ultimissima cosa che non abbiamo parlato, di Ron McKernan, Pig Pen, se ti soprannominano Pig Pen è perché hai un rapporto con l'igiene non esatto, se ricordate l'omonimo Pig Pen, personaggio dei Peanuts, che è quello sempre avvolto in una nuvola di polvere, amante di Janis Joplin, uno dei tanti, come si è visto, che era la vera anima blues che gli ha lasciati troppo presto, non ha anche una scia purtroppo di Dead veri, per poi arrivare a Garcia e adesso ultimamente a Phil Lesh, e loro sono rimasti in tre a fare, che escono come The Dead. E Phil Lesh era l'altro giorno ai Grammys Music Air vestito con questo signore mai anziano, anche se era il più giovane, ed era il bello dei Grateful Dead, in completo, in giacca, cravatta, pantaloni e Birkenstock, a piedi nudi, perché lui era comodo così, cioè potete incastrare fino qua, ma io una piccolissima cosa ribelle la devo avere. Long Live Dead. Peraltro loro, quando hanno ripreso come Dead, avevano la chitarra John Mayer, che è un grandissimo chitarrista giovane, che quindi ha dato anche una linfa dal punto di vista dell'età, delle anagrafe, e comunque ha agganciato un pubblico più giovane, e quindi ha rinnovato in maniera circolare il mito. Posso farti una domanda, Enzo? Perché è sempre una due già che anche, no, una curiosità, però è bello. Enzo è, sapete, non è soltanto uno dei più grandi critici italiani, ma anche uno dei più versatili. Tra due settimane lo avremo come a parlare di Enzo Iannacci. Qual è la liaison Enzo Iannacci, Grateful Dead? Nulla, se non che Enzo è esperto di entrambi. Volevo chiederti, parlavi prima appunto degli ascolti, si compravano i dischi. Qual è stato il tuo momento Dead, cioè il primo contatto? Beh, è stato sicuramente il Live in Europe, era un triplo, quindi i tripli costavano tanto, e io investii del 72, credo, alla fine Senigallia, diciamo, la paghetta di 3 settimane, non di uno solo. Era del mese, la paghetta, esatto, del mese. La paghetta del mese. Ed è un disco che ho consumato, è il mio primo disco dei Dead, poi sono andato a ritroso a cercarmi anche gli altri. Era una copertina bellissima, anche questa grafica, con questo piede che solca l'arcobaleno. Ed è un disco che comunque mi è rimasto nel cuore, perché è il primo triplo che ho comprato, poi non credo ce ne siano stati tanti altri nella mia, soprattutto a quell'età. Sì, ma dopo, sì, avevo 17 anni lì, quindi insomma. E quindi questo è stato il mio esordio, ne sapevo poco a quel momento, io frequentavo più in quel momento i King Crimson, i Traffic, o i Jefferson, e poi non l'avrei mai visti Grateful Dead, quindi iniziai con un live che fu quasi una sorta di battesimo, una fonte di conoscenza per una cosa che poi non avrei mai visto se non in video, al cinema, come dicevi prima, l'album Grateful Dead, il movie. Per cui quello è un esordio fantastico, perché comunque stavi per 2 ore attaccato a 6 facciate di vinile, e all'epoca c'erano le fonovaligie, quindi diciamo un ascolto veramente psichedelico, ma al contrario, cioè immaginavi quello che avrebbero voluto fare, ma tu avevi una roba che non era uno stereo, insomma, in casa non c'era quell'epoca. Senti, una domanda per voi tutti invece così rapida: qualcosa di paragonabile ai Grateful Dead, al di là del genere musicale, oggi lo vedete in qualcosa o no? Beh, no, sicuramente no, ma è meglio così, perché bisogna andare poi agli originali, cioè ci sono dei nuovi Beatles, un nuovo Hendrix, per fortuna no, perché abbiamo comunque un mare sterminato, un oceano di ascolti possibili, ed è bene che ci siano, non siano neppure dei cloni. Poi qualcuno può fare delle cover, è anche interessante come esercizio, ma pensare che ci sia una cover band, l'ho vista dei Grateful Dead, peraltro molto corretta, si chiama Dark Star Orchestra, è venuta a Milano nel 22, con un seguito di appassionati in arrivo da mezza Europa. È una band riconosciuta che riproduce un concerto dopo l'altro del tour europeo del 72. C'è una cosa molto filologica, parlando e dicendo anche le cose tra un brano e l'altro, anche un filino troppo. È quasi però, anti-Dead. Esatto, esattamente. Quindi, secondo me, no, non c'è nessun erede, ci può essere nello spirito, ma che non ci sia nella realtà, forse anche meglio. Tante jam band americane attuali hanno ripreso la filosofia, no? Per cui lasciano che si registrino i concerti, cercano di creare una community, qualcuno. Paolo Carù, per esempio, aveva individuato, Paolo Carù, essendo il portavoce, no? Aveva individuato il nuovo messia nei Fish, infatti poi Trey Anastasio ha suonato con i Fish col PH, non il cantante dei Marillion. I quali però noi abbiamo avuto una disputina su questo, perché Paolo tutto era fuorché un musicista, era un grandissimo appassionato, ma di musica dal punto di vista tecnico non capiva nulla, questo lo dico senza... E cioè, no, perché dico, guarda che queste cose sono scritte, cioè da musicista, questa cosa non la improvvisi, cioè se a un certo punto tutti cambiano melodie, ne fanno un'altra, le inseguono, cioè guarda che sono più simili a Gentle Giant, e quando ho detto Gentle Giant in casa di Carù era quasi peggio che nominare l'Inter, cioè sino una cosa... Sì, sì, come, anche come suono. Tanto è vero che Anastasio è stato tirato dentro da... Guarda, io la mia esperienza quasi dead, la mia almost dead experience è stata a Sesto Calende, alla Sala Marna di Sesto Calende, altrimenti nota per degli straordinari concerti di Liscio. Tu entri, ci sono tutti i manifesti, Titti Bianchi, la pagina d'album, ci sono tutti quelli che ci devono essere. E si fece il buon Carlo Carlini, che è un altro hippie italiano che non esiste più purtroppo, portò i Fish a fare l'unica data italiana solo loro, perché erano in tour con Santana, e c'erano un sacco di americani che erano in vacanza, che sono venuti. A un certo punto io e un mio amico siamo andati, sapete che c'è un elemento che non abbiamo nominato che caratterizza la musica dei Dead, c'è la droga, penso che non è che salivano sul palco completamente, ecco. Allora a un certo punto io e questo amico siamo andati fuori dicendo: non possiamo dentro munirci di questa cosa, andiamo sulla riva del fiume a fare questa cosa. Sono arrivate delle turiste americane che si sono, come avete visto le ragazze lì, completamente denudate, si sono buttate e ci chiamavano, e io guardavo sto cannone chiedendo cosa ho preso, cioè è vera questa cosa, sta succedendo veramente? Noi due italiani scemi, che allora tipo: ma mi devo spogliare, mi devo buttare, questi siamo quattro dei cretini. E intanto dentro c'erano i Fish che suonavano, era il periodo di Oist più o meno, bellissimo. Come filosofia e parte del suono, sì. Loro sono molto più scritti, ecco, la differenza è che non hanno questo spirito di improvvisazione totale, globale. Beh, fa piacere che abbiamo risvegliato i morti, no? Questa sera, nel senso, i Dead li abbiamo risvegliati. Andiamo ancora, e poi andiamo nel finale anche della serata, no? Con un paio di filmati, direi. Infilati... L'hai già detto, l'importante è che tu l'abbia detto a Stanley cosa mettiamo. Lui ne aveva quattro, ma direi che... Io metterei direi Darkstar tutta, una lunga. Allora, intanto dico già che domani sera appunto ci sarà questo concerto unico, perché appunto metterà insieme un omaggio ai Grateful Dead, ma anche a tutta quella controcultura, e quindi ci sarà una storia della controcultura tra le canzoni e fino ad arrivare invece poi all'attualità, quindi a altri brani permeati di quella psichedelia, diciamo così, poi si vedrà dal vivo. Avete lì anche diversi libri che sono anche condizioni vantaggiose, diciamo, sia di Enzo Gentile, sia di quello che poi domani sera vedremo, e anche di tutta la parte libraria della Calusca, e quindi lì, oltre che le magliette e altri gadget, ecco, diciamo così, per dare un senso anche di tutta la manifestazione. Andiamo appunto con un Dark Star, che rimane il brano psichedelico per eccellenza, no, di tutti. Sì, questa è una versione sempre del concerto a Veneta nell'Oregon del 72. È una versione... Allora, c'è una grande... Allora, chi è iscritto come un sottoscritto alle varie chat e riceve poi le newsletter dei Grateful Dead, eccetera... Non so se ce l'ho, non l'ho lasciata. Quella lì con la qua. Ci sono delle newsletter che un tempo venivano mandate cartacee, siamo nei primi anni 2000, anni 90, che erano tipo adesso, queste, dove c'era un po' di figure, immagini, recensioni di concerti, notizie varie, un po' di merchandising, eccetera, eccetera. Che mi hanno mandato più o meno irregolarmente 4-5 all'anno, no? Con cui uno si teneva informato su quello che era il mondo legato alla musica di Grateful Dead. Poi c'erano i calendari, c'erano tutta una serie di altre cose. Adesso i Grateful Dead non sono mai diventati ricchi, perché hanno, primo, c'è stata una storia abbastanza tragica ma nello stesso tempo divertente, che il padre del batterista Mickey Hart è scappato con gli incassi di un'intera stagione pari a $200,000, ed è il motivo per cui Mickey Hart per 3 anni non ha suonato, si è autosospeso, diciamo, non è stato mandato via dai Grateful Dead, si è autopunito, ha detto no, non mi sento più di suonare con voi perché mio padre, il reverendo Hart, perché era un reverendo, no, ha rubato i soldi della tournée. No, poi è ritornato nel 70, dal 72 al 75 è stato fuori, poi è ritornato dentro nella band. E devo dire che Grateful Dead su questo fatto, per ricordare un po' lo spirito, hanno fatto una canzone che si intitola He's Gone, se n'è andato, che è una molto bella tra parentesi, una canzone che dura sui 12-15 minuti come loro uso, no? Che hanno iniziato a fare a partire dal 72 per raccontare la storia del padre del batterista che è scappato con la cassa, no? Ma al di là di questo, volevo dire, questa versione di Dark Star dura una 30 minutes. E c'è un dibattito nelle chat in cui dicono se questa versione, in questo concerto live, è la più bella Dark Star, oppure la più bella è quella di Live Dead, registrata il 3 febbraio del 69 al Fillmore West di San Francisco. Poi, riguardo a Dark Star, per chi è interessato, è stata fatta una bella composizione dilatata da un tecnico del suono che si chiama Oswald, no, se ricordo bene, che ha messo insieme, ha preso tutte le, i Grateful Dead erano pignolissimi e perfezionisti, loro registravano tutti i loro concerti, no? Li ascoltavano perché volevano raggiungere la purezza del suono e hanno fatto questo enorme Wall of Sound, il muro del suono, per, in cui c'erano ogni strumento aveva un microfono con un mixer a parte che poi si fondeva tutti insieme, una cosa molto complicata e molto all'avanguardia per l'epoca, no? E quindi da tutte le registrazioni questo tecnico ha preso tutti i live di Dark Star e li ha messi insieme in un'unica composizione che dura 1 ora e 10 minutes circa, eh? E lì c'è, cioè, una Dark Star prendeva una settimana, sì, no? Allora è poco. La cosa bella è che poi potevi ordinarne un'altra, sì, se non te l'ha bastata c'è la doppia dose, cioè, esatto. Andiamo. Quindi andiamo con Dark Star, con questa versione. Voi poi dovete ritornare, immagino. West Texas town of El Paso, I fell in love with a Mexican girl. Nighttime would find me in Rose's Cantina, music would play and fading up would whirl. Black as the night were the eyes of Felina, wicked and evil while casting a spell. My love was strong for this Mexican maiden, was in love but in vain I could tell. One night a wild young cowboy came in, wild as the West Texas wind. Crashing and daring a drink he was sharing with wicked Felina, the girl that I love. So in anger I challenged his right for the love of this kid. Down went his hand for the gun that he wore. Challenge was answered in less than a heartbeat. The handsome young stranger lay dead on the floor. Just for a moment, stood there in silence, shocked by the foul evil deed I had done. Many thoughts raced through my mind as I stood there. Had but one chance, that was to run. Out through the back door of Roses I ran, up where the horses were tied. I picked a good one, he looked like he could run. Up on his back and away I did ride, just as fast as I could, from the West Texas town of El Paso, through the badlands of New Mexico. Back in El Paso, my life would be worthless. Everything's gone in life, nothing is left. And it's been so long since I've seen the young lady. My love is stronger than my fear of death. I saddled up and away I did go, riding alone in the dark. Tomorrow a bullet may find me, and I, nothing's worse than this pain in my heart. And at last here I am on the hill overlooking El Paso. I can see Rose's Cantina below. My love is strong and it pushes me onward, down off the hill to Felina I go. Off to my right, I see five mounted cowboys. Off to my left, ride a dozen or more. Shouting and shooting, can't let them catch me. I've got to make it to Rose's back door. Something is dreadfully wrong, for I feel a deep burning pain in my side. It's getting harder to stay in the saddle. Getting weary, unable to ride. But my love for Felina is strong, and I rise where I've fallen. Though I am weary, I can't stop to rest. I see the white puff of smoke from the rifle. I feel a bullet go deep in my chest. From out of nowhere, Felina has found me, kissing my cheek as she kneels by my side. Cradled by two loving arms that I'll die for, little kiss and Felina goodbye. Enzo, vieni che così salutiamo nel finale. Una cosa che così volevamo un po' lasciarci, dei Grateful Dead, di questi gruppi, no? Noi stasera abbiamo toccato relativamente il problema, cioè problema, le caratteristiche di quelle che era un po' l'aspetto lisergico, diciamo così, di questa musica, che per tanti versi per anni ha sovrastato anche la grandezza della loro musica. faccio riferimento anche a Jimi Hendrix, no? E cos'è rimasto? Era tutta controcultura, anche la parte legata, e quindi anche tutto quello che era legato alla percezione della mente, era quello che rimane di questo, o c'è ben altro? Perché poi dietro gli aspetti anche ecologici, pacifisti, restano, no? Sì, allora è difficile credere che a livello fisiologico siano cambiati i modi per assumere certe sostanze, ma sono cambiate molto le sostanze e sicuramente anche il tipo di sentore, no? Di percezione è cambiato. Sono anche passati 50, quasi 60 anni, anche perché poi il periodo della psichedelia musicalmente, culturalmente si può restringere quella vera, il cuore a 3-4 anni, cioè la seconda metà degli anni 60. Poi ci sono ovviamente anche delle fasi successive, però la creatività, il cuore pulsante e anche le figure al loro massimo, fatta eccezione per i Grateful Dead, che hanno continuato, sono comunque relativamente ristrette. Sicuramente l'LSD è stato un aiuto, un sostegno, un fautore. Non lo saranno altri tipi di droga, non lo saranno le droghe sintetiche che arrivano poi dagli anni 2000 in poi. Sicuramente artisti come Grateful Dead, i Jefferson, Jimi Hendrix, i Pink Floyd hanno poggiato la loro esperienza anche su quel tipo di intervento, ma se l'avessero applicato su altri musicisti il risultato non ci sarebbe stato. Ricordo, perché ai miei studenti all'università mostro non solo queste copertine, ma quelle che nel 68, 69, 70 escono in Italia, e ci sono copertine di Albano, di Caterina Caselli, che hanno assolutamente il segno psichedelico, ma ovviamente sono applicati come delle decalcomanie, si staccano. San Francisco, la canzone di Mamas and Papas, che fu un manifesto della psichedelia, in Italia esce per i Dick Dick, foglie gialle giù, cielo grigio su, e questo è l'inizio della canzone. Ovviamente non erano i Mamas and Papas e non c'era quello stesso spirito, c'era una traduzione giusto per andare in classifica, cosa che peraltro accadde. Quindi anche in Italia quello che ci è arrivato era molto sbilenco, sì, un paio di canzoni dei New Trolls dell'epoca, ma poi vanno anche a fare una miniera o canzoni invece molto più melodiche, quindi non c'è assolutamente la cultura qui in Italia, per cui diventa più facile parlare di droghe, parlare di eccessi, cosa che sono ovviamente sussistiti, ma non erano il cardine di una dimensione espressiva. In Inghilterra, come negli Stati Uniti, in California, perché già nel resto del paese questo stesso fervore non esiste. Ecco, l'LSD, che poi, come dicevamo prima, viene bandito nel 67, ma fino a quel momento non era proibito, quindi era un ausilio, esattamente come poteva essere l'alcol in un altro periodo o altre sostanze. Quindi che cosa rimane? Rimangono per fortuna questi dischi, cioè Jimi Hendrix probabilmente sarebbe stato un chitarrista assoluto anche senza le pasticche, tra virgolette, ma sappiamo che non è morto di quello, nonostante la vulgata ancora ci rimanda. Io ho fatto un libro appunto sulla fine, sugli ultimi giorni di Jimi Hendrix, c'è anche l'autopsia, quindi non sono speculazioni, però ancora viene facile dire che molti artisti sono morti di quello, alcuni sì, altri no, alcuni sono giovati per un certo tipo di vita, ad altri non è assolutamente servito, e questo è il distinguo che sta in ogni essere umano, no? Cioè Maradona ha giocato bene perché ha avuto una vita sregolata? Probabilmente no. Una vita sregolata l'hanno fatto calciatori che non sono mai scesi in campo, come dire. Beh, tu lo sai che dopo quello che hai detto ti sei prenotato per una serata su Jimi Hendrix, per cui lo dico già adesso, vedo una, dire, dagli applausi direi che anche perché di libri ne hai dato. Farei una conclusione che è un po' anche un ponte per domani sera. Ecco, abbiamo detto, Enzo l'ha sottolineato bene, che è rimasto molto nella grafica e molto di quegli anni rimane viva anche e viene sussunta, come diresti te, dal capitale, perché comunque è usata nella pubblicità a piene mani, dove c'è colore c'è psichedelia e lo vediamo, c'è sono endorfine positive, perché uno che vede un manifesto come quello viene preso bene così. E invece di controculturale di tutto questo, per fare un ponte e per dire cos'è rimasto, passando, modificandosi, di quell'esperienza lì libertaria o su temi civili come la guerra, ovviamente, la natura. Ma devo dire che se penso che in questi giorni è molto gettonato uno spot pubblicitario che fa la pubblicità di una società finanziaria che si chiama Fineco, che utilizza come musica It's a Wild World di Cat Stevens. Io tutte le volte che la sento mi viene un prurito abbastanza fastidioso, diciamo. Credo che anche a Cat Stevens mi venga un prurito. Però forse gli avrà dato l'ok, visto. È l'editore. Sicuramente. Vabbè, comunque, questo per dire come ormai tutto è stato mercificato, è stato mangiato, è stato captato, è stato sussunto, come dice un certo Marx. Però io sono convinto che comunque c'è sempre una... Oggi viviamo in una fase in cui c'è una concentrazione di potere e sicuramente gli spazi per sviluppare forme di contropotere sembrano ristretti, però esistono gli spazi di contropotere. Esistono, ci sono nascosti. Noi sappiamo che la nostra dinamica antisistemica è come un fiume carsico, ogni tanto salta fuori, ogni tanto va giù, sicuramente in questa fase è abbastanza sottoterra, però questo non significa che non esista. Deve trovare le nuove forme di comunicazione, di linguaggio, di capacità di captazione, di creare. Oggi sicuramente forse bisognerebbe recuperare quello che quel periodo lì è stato in grado di fare, cioè sviluppare un controimmaginario. Ecco, oggi noi penso che abbiamo bisogno di un controimmaginario in un momento in cui l'immagine, attraverso i social media, attraverso internet, attraverso tutte le forme di comunicazione moderne, è diventato preponderante. È lì che bisogna forse trovare degli elementi di antidoto. Adesso io non so, sicuramente credo che possa essere importante fare serate come questa, perché questo è un antidoto, fare la serata che facciamo domani, dove cercheremo di sperimentare in questo spettacolo concerto, parleremo di controcultura, di come questa controcultura ha dato origine al mito della Silicon Valley, paradossalmente, il passaggio alla controcultura, alla cybercultura degli anni 90, no? Ma parleremo anche della condizione precarietà, delle mutazioni del mercato del lavoro, quali sono i nuovi strumenti che devono essere pensati, immaginati per essere adeguati a quelle che sono le sfide e anche le forme di conflitto che si possono generare. Questo è. Gliele canteremo. Cercheremo di utilizzare un linguaggio diverso che non sia il comizio, tra virgolette. E non sia l'intelligenza artificiale. E che non sia l'intelligenza artificiale, assolutamente, no? E vedremo, queste sono forme di portare alla luce questo fiume carsico che comunque esiste dentro di noi. E direi che luogo migliore che questo, come controcultura, nella memoria di Primo Moroni e di quello che poi abbiamo visto anche di Matteo Guarnaccia, sono l'esempio. Salutiamo Andrea Fumagalli, economista, ma questa sera in versione Dead, grande esperto. Poi salutiamo Alessio, Andrea, che hanno contribuito benissimo a chi ha visto questo, e naturalmente Enzo Gentile, che veramente grazie, siamo stati siamo stati onorati di averlo qui e poi ci ha riempito di belle parole. Torno per Hendrix, ma voi dovrete fare poi un concerto hendrixiano assolutamente. è controculturale. Sì, cioè, hai detto qua, magari senza far vedere però le versioni originali, ecco. Grazie a tutti, manderemo magari ancora dei filmati, ma nella notte così. Grazie, grazie a tutti. Grazie.